e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e da Nicoletta Carbone. E naturalmente anche Cuore e Denari questa mattina non può partire con un pensiero, visto che la nostra è la trasmissione anche prevalentemente forse di cuore in questa circostanza, con un pensiero dedicato alla Sardegna, a questa situazione drammatica che sta vivendo in queste ore. Proprio poco fa, come avete sentito anche dal giornale radio, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito alla situazione per i disastrosi eventi meteorologici. Nicoletta. Un pensiero quindi veramente di cuore, la nostra solidarietà. E naturalmente rimanete in collegamento con noi. Noi oggi affronteremo naturalmente un altro tema, ma collegamenti dalla nostra redazione. E adesso partiamo, affrontiamo il tema di oggi. La crisi toglie il pane di bocca agli italiani, l'abbiamo letto su tutti i giornali, siamo ai minimi storici. Il 42% dei nostri concittadini ha ridotto la spesa dal fornaio. Ma non è sempre solo colpa della crisi, sono cambiate anche le nostre abitudini alimentari. C'è chi mangia meno pane per recuperare la linea, e chi vuole eliminare i chili di più cosa fa? Elimina i carboidrati e quindi la pasta, ma anche e soprattutto il pane. Qua in studio con noi abbiamo il piacere di avere il nostro dottor, ho detto nostro perché mi allargo, il nostro dottor Attilio Speciani. Perché adesso è anche un po' mio, da qualche settimana, certo. Vero. Specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Dottor Speciani, voglio dimagrire, tolgo i carboidrati e quindi pasta e pane, ma alla lunga questa non è tanto una buona scelta, perché? Diciamo che la domanda è abbastanza intrigante, perché la risposta è talvolta sì, talvolta no. E qui credo che parliamo anche del tipo di qualità del pane di cui parliamo, per cui un pane integrale, sano, ben fatto, assolutamente toglierlo di torno significa farsi del male. Se invece ci riferiamo a quelli che a volte sono i simulacri del pane, cioè panini fatti di farina bianca, raffinata, di scarsa durata e quindi talvolta non di certa provenienza, ecco che allora è meglio toglierli. Quindi abbiamo un sì e un no, e impareremo a capire che l'importante è arrivare a mangiare in modo sicuro, sapendo esattamente di che cosa ci nutriamo. Dottor Speciani mi ha dato un assist eccellente, perché a proposito di sicurezza, proprio ieri abbiamo letto una notizia che non ci lascia tranquilli: 9 forni abusivi sequestrati nel Napoletano, forni contraffatti, e dire che una volta il fornaio lo conoscevamo per nome, ci potevamo proprio mettere la mano sul fuoco, sulla qualità del suo prodotto. Qualcosa a quanto pare sta cambiando, ma la professione del fornaio resta nobile, tra l'altro è anche una delle più richieste, le più ricercate, e questo lo chiediamo a Francesco La Sorsa, che è il presidente della FIPPA, la Federazione Italiana Panificatori, Pasticceri e Affini. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. È vero che è così? Allora qualcosa sta cambiando anche nella qualità dei prodotti che troviamo? Non è proprio vero tutto questo. C'è del vero, ma ci sono delle inesattezze. Sarebbe da andare più nel vivo della discussione per poter... Cioè, abbiamo un'ora e mezza di tempo per discutere, naturalmente, però è vero che tra l'altro è una delle professioni più richieste, Presidente? Più richieste come personale o più richieste da chi si vuole avvicinare alla nostra... Ma a me vanno bene entrambe le opzioni. Per quanto riguarda il personale, c'era stata una richiesta qualche tempo fa necessaria, dovuta ad un ricambio generazionale che non c'era stato negli ultimi tempi. Oggi il momento di crisi sta impoverendo il mercato delle nostre aziende, e quindi mi sa che quella sia non è più possibile. E allora parleremo anche delle motivazioni nel corso della trasmissione per cui il consumo di pane si riduce e che ricadute ci sono naturalmente anche tra la categoria. Nicoletta. E a proposito di pane, noi impareremo a sceglierlo, l'ha anticipato il nostro dottor Speciani, a inserirlo correttamente nella dieta, ma anche a farlo. Non me ne voglia il presidente La Sorsa, ma io le devo confessare che ogni tanto lo compro, ogni tanto lo faccio del pane buonissimo anche con la mia macchina del pane. Sono sincera, come si dice a proposito di pane, dico pane al pane. Deborah. Ecco, io invece preferisco chi dice pane al pane piuttosto che chi rende pan per focaccia. E allora noi vogliamo raccogliere i proverbi e i modi di dire sul pane delle vostre regioni, 349-238-6666, ma potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Ma anche chiamarci naturalmente all'800-24-0024, forse ancora non avevamo ricordato il nostro numero verde. Ne dico un altro, perché ne ho trovati tanti. Un'altra o un altro? Con la fame, cara mia, il pane duro si ammorbidisce. E con questo partiamo. Salva Danaio. E quando quando sono andati dalla regina a dirle che i suoi sudditi non avevano pane, sapete lei che cosa ha detto? Che mangino le brioche. E allora, se compriamo meno pane non è certo perché, come diceva Maria Antonietta, mangiamo più brioche, anzi anche i fornai piangono la crisi, il consumo di pane, lo hanno raccontato molte inchieste sui giornali in questi giorni, è ai minimi storici e ieri La Stampa riprendeva uno studio della Coldiretti che dice esattamente che se ne mangiano al massimo 2 fettine al giorno. Infatti nel 2013 il 42% degli italiani ha ridotto la quantità di pane acquistato. 8 su 10, pensa Deborah, hanno tagliato la spesa tantissimo. Dal fornaio e l'Associazione dell'Agricoltura da tempo segnalano questa tendenza, ma secondo me non è solo la crisi, perché in effetti il pane quanto può costare? Quanto può incidere sulla borsa della spesa degli italiani? Guarda, possiamo fare un piccolo monitoraggio sul nostro territorio. Ho scoperto che a Venezia si arriva anche a quasi 5 euro al chilo e in altre zone naturalmente i costi sono molto inferiori. Allora io lo chiederei ai nostri ascoltatori. Quanto costa a bruciapelo così un chilo di pane nella vostra regione? 349-238-6666. Scrivetecelo in un sms o chiamate il nostro numero verde. Abbiamo dei libri per i nostri ascoltatori stamattina? Certo, abbiamo Come una pentola a pressione del dottor Attilio Speciani, che ha un libro che ha a che fare con il pane, vero? Sì, non tanto per i temi di cottura, ma per alcuni dei temi che forse riguardano anche questo calo nei consumi legato alla percezione di sensibilità, di reazioni al glutine e così via, di cui magari avremo modo di chiacchierare. Spesso ci trasformiamo come delle pentole a pressione perché ci infiammiamo e forse la scelta del pane può essere... Dottor Speciani, la scelta del pane può essere effettivamente una delle componenti in cui di fronte ad una situazione di tipo infiammatorio si va a ridurlo, proprio perché oggi le reazioni nei confronti del glutine o delle sostanze fermentate dei lieviti sono frequentissime in Italia e in Europa, dove le maggiori reattività sono nei confronti di latte, frumento e lieviti. Se parlassimo della Cina saremmo a discutere di riso e soia, però la nostra realtà è questa. Invece noi parliamo di pane, lo comprate ancora, ne comprate meno, lo fate in casa, lo surgelate, preferite cracker, grissini. E se non lo comprate più, per quale motivo? 800 24 00 24, Presidente La Sorsa, secondo lei mangiamo meno pane per colpa della crisi o forse ne compriamo meno perché non lo buttiamo più, lo riutilizziamo, magari lo compriamo una volta alla settimana e lo mettiamo nel surgelatore? Che cosa vi dicono i clienti che vengono nei vostri panifici? Che vengono i nostri panifici non aducono il calo vendita al costo. Il panificatore socialmente è stato sempre attento a questo discorso qua. Per quello che diceva lei prima, dove c'era confidenza con il fornaio, porta alla sua clientela molto rispetto, perché è il suo portafoglio. Non ha mai abusato del prezzo del pane in periodi particolari, ne ha dato dimostrazione, e continua in questo momento ad essere serio è coerente con se stesso. Quindi le componenti sono diverse, sono un po' quelle che lei ha elencato nell'apertura del servizio. Non ultime ci sono i problemi fisici a cui diceva il professore prima, molte intolleranze, molte allergie che comportano l'attenzione a quello che è contenuto nella panificazione, ma quando si va sul pane semplice, quello fatto con semplice acqua, farina e lievito, ben poco si ha, se non ci sono delle allergie dovute al frumento in particolare, poi adesso va di moda anche il lievito, veramente, perché nelle nostre alternative. Non è una moda, è proprio un problema vero appunto di salute per molte persone. Ci sarebbe molto da parlare sul lievito, perché il lievito non è contenuto soltanto nel pane. Certo, il pane può essere buono, è contenuto in molti altri alimenti, certo. Quindi non dovrebbero vietare soltanto l'uso del pane, ma si parla di limitare il consumo del pane, naturalmente. Vorrei leggere qualche ma torno a dirle, ci sono altre innumerevoli motivazioni, non ultimo l'avvento della panificazione nella grande distribuzione. Eccolo là. Il pane che viene dall'estero, il surgelato, il precotto, la Slovenia e la Romania hanno messo in ginocchio il nord perché non sono soggette alle nostre normative, che sono abbastanza giustamente a protezione del consumatore finale, ma molto rigide, perché l'Italia ha preso in pieno tutte le normative della comunità europea e alcune volte neanche del GDP. Allora, Presidente, adesso ne parleremo. Veramente avevo sentito parlare della passata di pomodoro cinese, ma del pane che venisse appunto da fuori Europa questa mi giunge nuova e quindi ne vorremmo sapere qualcosa di più. Intanto ci state scrivendo i messaggi al 349-238-6666 con i proverbi sul pane. Lei ne sa uno, dottor Speciani? Chi ha pane non ha denti, pane nus è mangiate spuse, nus e pan mangiate can, però per dire l'ambivalenza del rapporto. Però ci rapporto. State anche inviando il prezzo del vostro pane e sto vedendo delle cose molto interessanti anche qua, perché avevamo un po' così accusato Venezia, dove il pane costa oltre 5 euro al chilo, e qua vedo che a Genova Germano ci segnala 6 euro al chilogrammo, e cercheremo anche di capire le ragioni di questi costi appunto con il Presidente. A Bari Leo ci scrive circa 2 euro. Già, e 349-238-6666, continuate a scriverci, ma potete anche chiamarci all'800-24-0024. Abbiamo Silvano che ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno Silvano, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, un panificatore? Sì, un panificatore da esattamente una quarantina di anni, cresciuto col papà e la mamma, adesso lo faccio con mia moglie e mia figlia. Un piccolissimo forno che prima aveva un ottimo e buon lavoro, che oggi siamo un po' in crisi, ma non sono in crisi soltanto io. Siamo in crisi un po' in tanti panificatori, io faccio parte del consiglio provinciale, quindi un po' questa realtà la conosco. La questione del pane, del calo del pane, non è soltanto una questione che riguarda che i medici dicono che è vero, i medici hanno dato un buon contributo, però sono gli stili di vita delle persone che sono cambiati. Sì. Un giovane di 30 anni va via al mattino, torna la sera e il pane lo mangia sul gelato nella pizzeria. Questo è uno degli elementi. Per cui, e poi c'è un fatto culturale, il pane era legato molto al mondo del lavoro e molto all'aspetto religioso, secondo il mio modesto avviso, e quindi la sacralità del pane è venuta a mancare. Assolutamente, completamente. Quindi sono oggi cambiate, Silvano dice, anche le nostre abitudini di vita e abitudini alimentari. Stile di vita a 360 gradi. Dottor Speciani, lei ha anticipato, non è il pane da criminalizzare, non è il pane un prodotto, un alimento da eliminare dalla nostra dieta, perché è un pane, è un prodotto però che noi dobbiamo imparare a conoscere e a scegliere meglio. Lei ha già subito introdotto il pane integrale. Questo è un tema importante, tra l'altro vorrei rispondere al panificatore che ci ha appena chiamato. Io sono sicuramente tra i medici colpevoli di quelli che lui ha segnalato, perché facendo l'allergologo e l'immunologo spesso sono obbligato a segnalare la necessità di ridurre certi tipi di alimenti, che non sono ovviamente solo il glutine o le sostanze fermentate, ma anche molti altri. Eppure mi trovo a suggerire, sono tra i più suggerenti, ad esempio per le mamme, di preparare per i bambini dei panini sani da portare a scuola al posto delle merendine. Panino sano vuol dire un pane integrale aperto che sia buono, croccante, morbido contemporaneamente, in cui mettere dentro una fonte di proteina sana e della verdura. Allora io suggerisco, sono tra quelli che tutto sommato toglie il pane, ma suggerisco di farlo, e le mamme mi dicono: e dove lo trovo il pane integrale? Allora questo è un altro tema che si pone, è un tema importante. Poi avendo approfondito questo tema, ecco che mi rendo conto che i panificatori mi dicono: ma io la farina integrale ha un tempo di scadenza molto più vicino, non è tanto un problema di costo quanto un problema di stoccaggio, più facilmente va incontro a deperimento, cioè ci sono dei problemi legati ad un problema logistico. Però caspita, tutti noi, le trasmissioni televisive, radiofoniche, i medici, tutti ci stiamo adattando ad un mondo che cambia, forse anche un minimo di maggiore, avendo un prodotto come quello del pane che storicamente è nostro, cerchiamo di renderlo vivo. Dottor Speciani, sottolineiamo perché i medici nutrizionisti caldeggiano l'utilizzo di cereali integrali, perché diversi studi suggeriscono che i cereali integrali siano protettivi nei confronti di varie malattie, comprese quelle cardiovascolari, diabete di tipo 2, vari tipi di tumore. È così, dottor Speciani? È molto così, se posso dire, nel senso che... Cioè non è solamente una moda o no, assolutamente, un gusto cambiato. Io devo dire purtroppo che noi siamo stati condizionati per lungo tempo dal concetto delle piramidi alimentari. Piramidi alimentari, se noi guardiamo quelle di 15 anni fa, alla base avevano sempre cereali e nessuno arrivava a definirne la loro integralità. Per cui anche nelle immagini che noi diffondavamo ai bambini sui giornali c'erano panini bianchi spesso e volentieri. Ora, questa cosa si è documentata come uno degli esperimenti più tragici, perché non mantenere l'integralità ha portato ad una crescita complessiva della obesità. Abbiamo degli studi bellissimi fatti, ne cui alcuni, se vogliamo poi anche un dibattito, se trovo ascoltatori medici dall'altra parte, in cui è sancito che persone che mangiano lo stesso numero di calorie, nello stesso modalità, ma cambiando i propri cereali da raffinati ad integrali, hanno un calo di massa grassa, hanno un miglioramento del loro stato generale e una riduzione delle malattie cardiovascolari. Non è una cosina da poco. Non è una cosina da poco, noi ci fermiamo. Sì, esatto. No, tra l'altro poi preparo già il presidente della FIPPA, appunto la Sorsa, perché vorrei sapere anche qualche cosa in più rispetto al tema del costo del pane integrale, perché gli ascoltatori ci segnalano che se addirittura andiamo su questa varietà di pane, per l'appunto, andiamo sugli 8 euro al chilogrammo, quindi vogliamo capire anche quali spese aggiuntive sostiene un panificatore per appunto produrre un pane di questo tipo, che a quanto pare invece è sempre più diffuso nell'alimentazione quotidiana. Cuore e denari. E mangio pane, pane e sale. Il cielo piove. E ritorniamo a parlare di pane a Cuore e denari. Anche voi ne consumate meno? Raccontatecelo insieme, metteteci anche un detto sul pane della vostra regione. Ai proverbi più carini, più interessanti, più curiosi, naturalmente regaleremo un libro della biblioteca di Cuore e denari. Deborah, lo sapevi che sabato c'è stato il record della forma di pane più lunga del mondo? Ma dove? Protagonista della seconda giornata di Gluten Free Expo nei padiglioni della Fiera di Brescia, un panone. Ah, quindi qui in Italia. Sì, quanto lunghissimo, grande? 58 metri. Adesso, boom! Il record del panino, però a fronte di questo record abbiamo invece anche dei minimi storici per il consumo di pane fra gli italiani. Ti racconto qualche dato a te, ai nostri ascoltatori e ai nostri ospiti, che peraltro soprattutto il presidente dei panificatori conosceranno benissimo, appunto, conoscerà benissimo. Secondo la Coldiretti, nel 1980 il consumo di pane giornaliero si aggirava intorno ai 230 grammi al giorno, a testa. Nel 1990 scendeva sotto i 200 grammi, nel 2000 180, nel 2010 120, nel 2012 siamo a 106 grammi e quest'anno siamo scesi anche al di sotto della soglia del letto. Quindi sotto i 100 grammi, 98 grammi circa di pane al giorno, appunto, per ogni persona. È colpa, lo dicevamo nel corso della trasmissione, delle tante sensibilità al glutine, ma anche ai lieviti, e quindi Nicoletta, oltre a spingerci a consumare meno pane, non è sempre e solo la voglia di perdere peso, ma anche la nostra, tra virgolette, irritabilità, quella dell'intestino. Dottor Speciani, vede la Deborina come sta diventando tecnica? Brava, casualmente. Brava. Infatti allude alla sensibilità al glutine, che non è la celiachia, ma qualcosa di molto simile, di cui abbiamo già parlato e che sta aumentando significativamente. Ma voglio leggerle, dottor Speciani, un ascoltatore, adesso che lo trovo, che ci dice che è sconvolto dal fatto che lei ammetta l'errore della piramide alimentare di 15 anni fa. E se sbagliano anche questa volta, chi ha seguito i consigli di 15 anni ha sbagliato ed è ingrassato. Serietà, gente. Anche perché le nostre mamme e i nostri papà non avevano sicuramente nessuna sensibilità al pane. Io posso dire, siamo in una trasmissione che parla di cuore e denari. È importante, interessante segnalare che le piramidi alimentari vengono discusse a livello del Dipartimento di Agricoltura statunitense apertamente dalle lobby. Cioè, capito? Perché poi è il modo in cui si fa informazione a volte. Noi qui facciamo informazione, cerchiamo di dire le cose pane al pane, vino al vino, come si diceva prima. Se le regaliamo di il suo lieviti, libro, d'accordo? Dottor Speciale. Però è vero che per anni è stata gabellata la presenza della piramide pirramide alimentare come se fosse il frutto del lavoro degli scienziati, e invece purtroppo è il frutto di una discussione economica in cui anche dei pareri scientifici si confrontano anche con dei pareri di tipo commerciale, certo, di produttori. Io credo che l'adesione più importante sia quella, come diceva prima Deborah, cioè i nostri progenitori che lavoravano sul piano della cercare di mangiare, e l'integralità era obbligatoria, come certo, dire, non è che ci potessero scegliere, quindi arriviamo ad un'epoca in cui, scegliendo in maniera, come dire, fisiologica e naturale, la gente non aveva diabete, ne aveva molto meno, ne aveva meno malattie cardiovascolari e così via, quindi allora, ci sono delle regole. Sentirei cosa ne pensano i panificatori di tutto questo, ma magari ci mettiamo già ai nostri ascoltatori, perché Giusy da Treviso è proprio oggi, come dire, un po' la donna di cuore e denari, perché mette insieme il tema dell'alimentazione accanto a quella, a quello dei soldi. Giusy, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì. Niente, volevo fare solo una considerazione sul solito discorso che si fa sul prezzo del pane, che deve costare poco. Perché deve costare poco se è una cosa che mangiamo quotidianamente? Certo. Deve essere fatta bene, deve essere fatta utilizzando ingredienti sani e ingredienti certificati. È sbagliato pensare che il pane deve costare poco. C'è una professionalità, c'è una preparazione da parte dei professionisti che continuano a formarsi anche dopo che si sono magari specializzati in una scuola di base, continuano a farlo anche dopo, e questo ha dei costi per loro, e allora bisogna premiarla. Certo, certo. Però Giusy, a Venezia i 4,65 euro rilevati dal quotidiano La Stampa ieri, su indicazione immagino dei prezzi forniti dalla Coldiretti, non so quale sia stata la fonte, poi magari la controlliamo, qui in questo prezzo noi paghiamo anche l'affitto del locale, paghiamo le bollette che il panettiere deve sostenere per mandare avanti la sua attività, tutto comprensibile naturalmente, però magari così un po' balza all'occhio, no, questa differenza di quasi 5 euro a Venezia, Genova e gli altri prezzi rilevati dagli ascoltatori, e 2 euro di Napoli. Lei che ne pensa? No, io trovo più gravi i 2 euro di Napoli, eccolo, piuttosto là dei 5 euro di Venezia, infatti, perché a Venezia ci sono anche problemi di trasporto, e questo incide moltissimo. Certo, guarda, ci sono andata a questo video. Qual è il problema? Certo, Giusy, va bene, grazie Giusy, per la sua... Io sentirei un commento del nostro presidente, certo, Francesco La Sorsa, che tra l'altro ci deve anche raccontare come si forma il prezzo del pane integrale. No, io innanzitutto applaudo alla signora che ha poc'anzi telefonato, perché mi auguro chiaramente che ce ne siano tanti così competenti e comprensive come lei. Sì. Per quanto riguarda la nostra, insomma, vita, ha lanciato una pella. Ma distendo dalla faccenda del pane integrale, innanzitutto da quella mamma che dice dove lo trovo. Evidentemente non è una mamma abituata ad andare nelle aziende di panificazione, del panificio artigiano. Perché il pane integrale fa parte della nostra produzione giornaliera da innumerevole tempo. Ecco, come si distingue, Presidente? Solitamente uno lo vede nero e dice, esatto, quello integrale, invece no. No. Che indicazioni può dare ai nostri ascoltatori, che le incrociamo col dottor Speciani? Se come io no? vengo da lei e voglio comprare il pane integrale. Guardi, non è solo... sul cartellinamento è chiara. E i panificatori io le facevo... accendo prima alla legislazione italiana, che è molto severa per quanto riguarda questo. Per quanto riguarda l'esposizione del pane, sotto ogni tipologia di pane ci deve essere il suo cartellino con l'elenco degli ingredienti in modo decrescente. Quindi ogni consumatore, leggendo quel cartellino esposto, sì, è sicuro di quello che sta comprando. E quindi, insomma, anche il proprietario dell'attività ne è responsabile e ci mette giornalmente la faccia. Costa di più, costa un po' di più. Non costa assolutamente di più. Se per di più intendiamo che costa il pane di nuova tendenza, quello del Kamut, quello di Segale, quello di Suia, che sono legati a costi di materia prima notevolmente più alti della farina integrale o della farina bianca o della farina di semola, da noi prodotta giornalmente, è legata a piccole produzioni giornaliere, perché certo, sono pani di tendenza e quindi sono legate a piccolissime produzioni. Allora il costo alto della materia prima per unità di e la piccola produzione comporta naturalmente un prezzo diverso da quello che del ma pane quello integrale, ma non appartiene al pane integrale. Benissimo. Dottor La Sorsa, le dico che molti dei nostri ascoltatori ci stanno scrivendo che il pane se lo fanno a casa e noi parleremo anche di chi il pane se lo fa a casa, ma andrei a Giorgio che ci chiama da Roma all'800 24 00 24. Deborina, preparati i proverbi che sono pronta. Giorgio, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. E mi dispiace molto dirlo, ma noi non compriamo più pane perché è troppo buono il pane. Vedi, non è così buono che guardi, ne mangiamo guardi, troppo. Io sono totalmente solidale con lei. Bravo, Giorgio. Se fosse per me vivrei di quello, ma sono stata punita nella vita per questo. E che cosa mangi in alternativa al pane, Giorgio? Che così abbiamo allora, il dottor Speciani. Allora, io mangio delle gallette svedesi di segale integrali, perché sono, io le si trovo punisce. Comunque molto buone. Certo. Però, non so, non si può fare la scarpetta, per cui ne mangio di meno. Non è vero, sbriciolandola, sbriciolandola bene, vabbè, poi viene una cosa... Ma io lo faccio, ma non è la stessa cosa che una fetta di pane di Lariano. Bello cioè, fresco, insomma, bel panino con la mortadella la mattina. Si punisce un po', sì, un ma po'. Ecco, io dalla telefonata di Giorgio mi è venuta questa domandina. Pensavo ti fosse venuta voglia di mangiare la polenta. Ci sono delle persone che come Giorgio dicono il pane è troppo buono. Dietro quel pane è troppo buono c'è questa voglia di carboidrati, di pasta, di pane, perché ci danno un forte senso di sazietà, ma questa voglia, questo desiderio, con desiderio assolutamente sano, che ciascuno di noi ha quando ha questa, anche si siede a tavola e ha voglia, nasconde anche, e potrebbe nascondere anche delle carenze, non solo d'affetto. Ma diciamo che ci sono due tipi di reattività, una legata proprio alla presenza di una reazione infiammatoria. Spesso e volentieri quando una persona ha una infiammazione da cibo va a cercare specificamente quel cibo, perché la presenza di queste sostanze infiammanti è un po', come dire, stuzzicante da un certo punto di vista per l'organismo. Dall'altra parte è anche vero che l'assunzione di carboidrati, soprattutto se parliamo di pane bianco a veloce assorbimento, è come alla fine molto simile al fatto di mangiare cucchiaini di zucchero. Per cui si va ad intervenire su meccanismi veramente di tipo cerebrale, encefalico, cioè come se si sviluppassero delle sostanze che sono come dei tranquillanti generali. Qual è il problema severo? Che uno ha un'azione di detensione immediata e quindi se ha litigato con la suocera, con lo zio, col nonno, eccetera, tutto sommato i due panini di fila lo gratificano. Lo tranquillizzano. Il problema severo è che se il panino è bianco, non è integrale, non è mischiato con qualche mandorlo o qualche noce, è come si diceva prima, a distanza di mezz'ora, 40 minuti, determina un ritorno della fame e quindi il rischio effettivamente dal punto di vista della linea diventa abbastanza cospicuo. Possiamo dare la linea a Maria Teresa? Sì, Maria Rosa? Magari sentiamo i suggerimenti perché in viaggio la facciamo aspettare un momentino. Maria Rosa, aspetti che poi siamo da lei. Cuore e denari. Si chiacchiera, Deborah chiacchiera con il dottor Speciani, ormai diventata un'esperta di sensibilità al glutine. Esatto. Faccio un check-up al giorno qua in diretta. E poi questa sorta di fastidio, di timore che abbiamo nel consumare prodotti lievitati, perché il lievito, ma scopriremo che non è proprio solo il lievito. Ma no, povera Stella, il lievito non è colpa sua, è che il lievito è una delle espressioni della fermentazione, ci penseremo. Ma anche della dieta mediterranea, dottore, qua come la mettiamo? La varietà salva tutti. Eccoci qua, quindi sentiamo, non abusare. Sì. Sentiamo Maria Rosa da Piacenza, l'abbiamo fatta aspettare e poi abbiamo anche Bruno da Milano. Maria Rosa, pronta con un proverbio, pronta a ricevere il nostro libro all'800 24 00 24. Eccoci qua. Buongiorno, complimenti a tutti, io vi seguo sempre, siete bravissime. Brava. Anche il dottor Speciani che grazie. È sempre molto bravo. Io volevo dirvi il proverbio che mi diceva sempre mio nonno quando andavamo a trovarlo in montagna, e mi diceva pan e pagne in buon compagno. Cioè pane e abiti sono compagni per il viaggio, sono buoni compagni per il viaggio. E lui ci voleva sempre dare una fetta di pane con quello che aveva naturalmente per il viaggio di ritorno. Certo, per ritornare dietro. Carina. Grazie, grazie Maria Rosa. Volevo solo dirvi che io sono almeno 10 anni che mi faccio il pane in casa, ho fatto il forno a legna e faccio il pane per tutta benissimo. La famiglia. Allora adesso Maria Rosa, arrivato, prendiamo un appuntamento, andiamo noi a mangiare. Noi lo aspettiamo e andiamo a Bruno che ci chiama da Milano con un altro proverbio. Vada, un altro libro. Ecco, bello, buongiorno questo. A voi tutti e ai vostri ospiti. Mi sentite? Sì, sentiamo bene. Sì, buongiorno. Beh, mi è venuta quasi fame, quasi mezzogiorno. Lo dica a me, guardi, io che ce l'ho sempre. Una bella fetta di pane fatta in casa con l'olio e sale. Questi sono ricordi dell'infanzia, praticamente quando si faceva il pane in casa e si andava a prendere la farina e l'impasto era praticamente farina, olio, acqua e sale. Poi noi ragazzi prendevamo delle fette con dell'olio, le portavamo a scuola come la classica merendina che adesso praticamente ha tutti questi problemi di linea. Il proverbio che volevo dirvi era questo, mi ricordo le mie nonne e mia madre che me lo dicevano, e dicevano: mazze panel fa le figlie belle. È vero. Questo è un dialetto, e che significa ovviamente che le botte e il pane fanno i figli belli. Sono uno strumento di educazione, sì, molto efficace. Io, insomma, io ecco, direi che preferisco il pane. Prendiamo le distanze, Bruno. Ma comunque c'è anche questo proverbio, vabbè, però. Sì. No, tra l'altro stavo pensando che io ho trovato una pagina su internet dove praticamente ho rilevato ben 64 proverbi sul pane e non c'erano i due che ci hanno raccontato adesso i nostri ascoltatori, per cui ce ne sono un'infinità. Il pane nero che dura del bianco che finisce, ci scrive Marta da Bergamo. Mm-hmm. E noi continuiamo a parlare di pane, sì, di costi, di alternative al pane, posso di chiedere al nostro presidente che cosa ne pensa di questa crescente abitudine di molte famiglie a farsi il pane in casa? Presidente, la sorsa, i panificatori come vedono questa nuova pessima abitudine? Perché? Guardi, io non so la qualità di pane che viene fuori, perché dirsi che dire di se stessi che il pane è ottimo, il pane noi lo facciamo, ma prima di dire che è ottimo quello che facciamo noi, lo mettiamo a giudizio del consumatore. Però è anche un modo per dare una dignità, insomma, a questo alimento, che è un alimento principe della nostra alimentazione, e quindi, insomma, ci si gode anche questo momento del farlo insieme, magari con la famiglia, si impasta la sera, si fa lievitare e si mette in cottura il giorno dopo. No, presidente, proprio non è d'accordo. No, io non disdegno se ognuno va, però i tempi, guardi, se si pensa così, se lo si fa per piacere, per hobby, dicendo, ha una logica. Se lo si fa per risparmiare o per qualità, la logica non esiste più. È vero anche che non si trova più il pane buono come una volta, e ne parliamo tra poco, continuiamo a parlarne. Essere e benessere. E vuoi l'orlo batti e l'orecchio trovo, pane a pane. E l'orecchio capì, anche se ha prezzo di sanguinare. E la bocca cercò, un'altra bocca trovò, cuore a cuore. Allora, che facciamo? No, i proverbi ne abbiamo già letti tanti. I proverbi ne abbiamo letti tanti. Il nostro presidente è un po' polemico, no? E giustamente dalla sua parte contro chi, nei confronti di chi si fa il pane a casa. I nostri ascoltatori però ci raccontano che vuoi per risparmiare, vuoi per avere un pane fresco a disposizione o per poter utilizzare la farina integrale e sperimentare anche nuovi abbinamenti, utilizzano le macchine da pane e si fanno il pane a casa. Presidente, in realtà trovare il pane buono come una volta è un po' difficile. A me capita di comprarlo al mattino e alla sera lo trovo duro, gommoso. Sbaglio pane, sbaglio forma, sbaglio fornaio, sbaglio pane, a conservarlo. Sbaglia pane, come tutte le cose, c'è dell'ottimo pane e del pessimo pane, c'è l'ottimo artigiano e il pessimo artigiano. Però le 26.000 aziende distribuite sul territorio fanno un mestiere che è definito l'arte bianca. No. Quindi, voi avete anche tra l'altro è un artista. No, ma guardi che adesso non sto facendo né polemiche. No, ma ci mancherebbe altro. No, stavo rilevando, presidente, che avete come FIPA anche, ho visto sul vostro sito internet, addirittura una pubblicazione che si chiama Arte Bianca. Certamente, ecco, sì, questo è il nostro giornale di categoria. Ora, perché il panificatore è veramente un artista, io lo inviterei a vedere i lavori fatti. E nella panificazione giornaliera, e come brani artistici, e come varianti del tema da alcuna gente, che veramente ha qualche cosa che nulla di invidiare ad altri artisti. Ora, se questa forma d'arte viene vanificata con i tempi moderni, si sta disperdendo, a mio parere, un patrimonio grandissimo, altissimo della nostra nazione. Noi abbiamo ben 400 tipologie di pane sul nostro territorio. 400? Sì, si differiscono non solo da regione a regione, ma a volte anche da campanile a campanile. Perché è figlia delle eredità riportate dai genitori, no? Da quel pane fatto in casa a cui faceva riferimento il signore di prima, nelle sue evoluzioni, nelle sue specie, è venuta fuori una storia della panificazione che non ha uguali nel mondo. L'Italia è unica in questo. È vero, però una. Presidente, posso, cosa dobbiamo posso dire? Se con dottor i lieviti Speciani, abbiamo dei una problemi... battuta da lei. Esatto, no, una battuta nasce dal seguire dal punto di vista medico alcuni panificatori di cui devo dire la storia che mi raccontano nella loro passione a fare il pane è quella che non è quella di tutti, nel senso che ad esempio il fatto di usare una lievitazione naturale piuttosto che codificare una lievitazione precisa con certi tipi di sostanze cambia gli orari. Io quando sento due in particolare di panificatori che in realtà mi dicono: io inizio l'impasto, lo lavoro e non so quando il pane è pronto da infornare, perché può dipendere dall'umidità, dal freddo, dal tempo, dalla farina, dalle condizioni, per cui davvero lì è un'arte, ma è un'arte che a volte ti toglie il sonno, mentre oggi so per esperienza da altre persone che seguo, e qui mi confermi eventualmente la sorsa, purtroppo la panificazione, che ha delle caratteristiche anche di continuità, ha bisogno del lievito di birra inserito in un certo momento, esatto, di certi orari codificati e così via. Procedimento industriale, appunto. Esatto, è diverso, il pane vivo è una roba diversa. Presidente, insomma, la sorsa, è così? 30 secondi. Con il nostro mondo, quello che lei dice. La panificazione artigiana rimane sempre la stessa, è legata sempre a quello che lei diceva. Se si comincia a fare il pane non si sa quando infornare, perché è soggetto a tante varianti quotidiane. Termiamoci allora, qua, presidente, ci fermiamo, esatto. E riprendiamo. Riprendiamo tra poco. Cuore e denari. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giro. Diventa però complicato scegliere il pane che ci fa bene. Dottor Speciani, lei ci ha dato già delle indicazioni. Il pane non è naturalmente il demonio, non fa ingrassare. Bisogna saperlo scegliere e, nel caso che per chi lo fa a casa, saperlo preparare. Un rapido flash su quello che ci siamo detti per dare delle indicazioni chiare ai nostri ascoltatori. La sua posizione è tra l'integrale e il raffinato. Scegliete l'integrale, i cereali integrali hanno numerose virtù che sono provate dalla ricerca nella prevenzione di molte malattie. Quindi preferire moltissime false convinzioni, gente che dice l'integrale ti ruba, intoppa, ti toglie, ti intoppa, oppure ti lo dice anche un nostro ascoltatore, sì, che cioè? L'integrale, secondo un ordinario di alimentazione, non fa assimilare alcuni elementi di quello che mangiamo. Bravo, questo ordinario è bravissimo, è vero, il cibo integrale consente ad esempio di tirare giù dei grassi, delle sostanze nocive, cioè nel senso la fibra serve anche per far transitare meglio, e quindi magari i grassi, anziché essere assorbiti immediatamente, vengono portati un pochettino più in basso e digeriti dai fermenti del nostro intestino in maniera più equilibrata. È un beneficio questa cosa, non è una negazione, quindi lo voglio ribadire. Secondo punto, vediamo, lo accennava Deborah, molte persone devono rinunciare al pane, o ci rinunciano, lo riducono per la sensibilità al glutine. Lo sappiamo, non è la celiachia, che è invece l'intolleranza permanente al glutine, ma c'è questa entità clinica che si sta affermando, guadagna sempre più terreno e ha i segnali che un po' mimano quelli della celiachia, certo. Dolore addominale, gonfiore, mal di testa, eccetera. Allora, e che si fa? Nel caso elimino il pane. In questo caso però, dottor Speciani, possiamo dare delle indicazioni. Ci sono delle farine che sono senza glutine. Farine che sono ottime da gestire e anche da fare per prova, perché come si diceva durante la trasmissione, la varietà alimentare è importante, per cui l'utilizzo ad esempio della farina di riso, della farina di mais, della farina di miglio, a volte miscelandolo, da farina d'avena quando è effettivamente pulita nella sua produzione, sono tutte sostanze alternative. E poi degli strani mix che si possono fare. Già vedevo prima un radioascoltatore segnalava di miscelare con della farina di patate, quindi con della fecola. Ecco che abbiamo delle possibilità di costruirci dei pani ad hoc. E però vorrei dare come indicazione che anche di fronte alla gluten sensitivity, che sta, come dire, arrivando ad una dimensione sicuramente più corposa, è da discutere il fatto che debba essere eliminato completamente anche per un certo periodo. Io parto, quando ci sono dei fenomeni di intolleranza, sempre come nello svezzamento del bambino, cioè iniziando a reintrodurre poco per volta qualche piccolo pasto alla settimana, in modo da mantenere profondamente un rispetto nei confronti del cibo. E poi Deborah. No, stavo c'è leggendo. Sì, c'è il lievito, ma c'è anche Riccardo che da Toscano ci scrive che lui si fa il pane da 5 anni con la pasta madre e il forno a legna, perché poi a proposito di pasta madre bisogna fare la differenziazione fra lievito e lievito, tra quelli appunto usati per fare il pane in casa. Ho condiviso la mia ricetta su un sito, pantoscano.tk, il mio essendo toscano, parole per le sue orecchie, dottor Speciani, è senza sale. Bravissimo, in realtà questa cosa è fantastica, perché quando noi riduciamo il contenuto di sale otteniamo dei grandi benefici per la salute e per il benessere della gente. E quindi, però i panificatori, presidente La Sorsa, avete già ridotto, vero, la quantità di sale nel pane? Presidente, 2 anni abbiamo chiuso un protocollo col Ministero della Sanità. Vero, sì. Che ci ha affidato il compito di ridurre gradualmente la quantità di sale messa nel pane. È un impegno che ci siamo presi, stiamo portando a termine, le dirò, con successo. Sì. Però non sempre è accettato dalla popolazione. Che quindi vi chiedono il pane un po' più saporito. In particolar modo nel meridione, di dove io sono originario, abituato da sempre a sapori più forti, più corposi, molte volte trova contrasto in questo discorso qui. Ma voi dite che il fornaio, presidente, rispondete che il fornaio pensa alla tua salute, quindi ti fa mangiare un pochino meno salato per garantirti il tuo benessere. No, tra l'altro il fornaio, oltre che a pensare giustamente alla salute, pensa anche un po' alle famiglie che devono fare economia. E tra l'altro, vero, presidente, che molti vostri associati la sera, con tutte le eccedenze di pane che hanno accumulato per la giornata e magari non hanno venduto tutto, lo mettono a metà prezzo? E lo so che magari lei non è a metà prezzo, ma più delle volte viene donato a mezzo dei poveri o a quant'altro di gente che in questo momento ha bisogno. È in difficoltà. Il fornaio in modo particolare, ma non perché lo rappresento, è generoso in questo discorso qui. È il prodotto che con sudore fa tutte le notti e produce durante la giornata, certo. Mi dispiace buttarlo. No, ma conserva ancora non quella sacralità legata al pane. Il pane non si butta mai. Tra l'altro potremmo proprio chiedere ai nostri ascoltatori cosa ne fate del pane che avanzate. C'è chi lo surgela, c'è chi invece lo riutilizza. La 800. Mia mamma ci fa il pancotto. 800 24 00 24, se volete la ricetta della mamma di Deborah sul pancotto oppure la torta di pane che può preparare come il quella che Speciani. Ci ha portato Marco Lombardo, perché ce l'ha fatta la sua mamma con le mele. Mettete allora le vostre ricette, se non volete raccontarcele direttamente al nostro numero verde, postatele sulla nostra pagina Facebook. Sentiamo gli ascoltatori. Guarda quanti ce ne sono. Chi era in attesa da un po'? Forse Marco da Milano. Marco, perché buongiorno. Ha dovuto limitare i farinacei. Marco, buongiorno. Buongiorno. Sì, vada Marco. Buongiorno, volevo solo fare una considerazione su un ascoltatore precedente che diceva il pane di un tempo, una volta il pane era un simbolo quasi anche quotidiano, dove c'era la riunione familiare. Ecco, volevo solo aggiungere che un tempo, è vero, il pane era un pane comunque sicuramente diverso da quello che oggi si fa in maniera, tra virgolette, industriale, era un pane... pane nero, un pane di segale, un pane integrale, e quindi aveva un indice glicemico diverso da quello che oggi presentano i panni con farine raffinati. Certo. E poi c'era un'altra considerazione: il mio nonno era un contadino, facevano il pane una volta alla settimana e per tutta la settimana, dalla mattina alla sera, e dalla mattina alla sera erano fuori a smaltire tutto quello che era eccedenza, che ce n'era ben poca a suo tempo. Questa è solo una considerazione in merito appunto al pane del passato. No, invece volevo dire una mia esperienza per quanto riguarda la raffinatezza o meno, quindi ho eliminato quasi completamente tutti i pani raffinati, le farine raffinate, quindi anche la pasta. E ho, insomma, sei convertito all'integrale, Marco, perché? Sano. Perché da quando io avevo 17-18 anni soffrivo fino a circa il 2001 di forti emicranie periodiche. Le emicranie proprio allucinanti. Sì, dove... e con questo passaggio, mi scusi Marco, la sto un po' col fiato sul collo perché abbiamo molti ascoltatori. Sì, lei nella conversione ha trovato benefici. Dottor Speciani, secondo lei potrebbe essere stato questo passaggio? Assolutamente sì, potrebbe essere stata sia una riduzione di un particolare tipo di farina o di proprio legato quindi ad una reattività specifica, e a volte, come abbiamo detto prima, non è necessario eliminarla, ma semplicemente magari iniziare a variarla un po' insieme ad altri tipi tipi di farina. In una scelta in cui uno cambia, anziché mangiare sempre le stesse cose, inizia a mangiarne anche qualcuna di diversa, ecco che spesso e volentieri si può ottenere una riduzione del sovraccarico. Sono sensibile al glutine, mi manca la pizza. Se la mangio una tantum, ci scrive Laura da Roma, mi fa male. Sensibile, non intollerante. Se la signora ha una forma di celiachia documentata, non può mangiare la pizza, appunto. Segnalo che ci sono delle pizze fantastiche. Io ho l'esperienza di Milano e di posti a livello internazionale in cui ci panificatori sono. E ristoratori fanno delle pizze buonissime senza glutine. Se invece è solo sensibile al glutine, se ha una sensibilità da gluten sensitivity, la sua pizza è benvenuta, ecco, all'interno di un contesto di varietà alimentare. Perché deve rieducarsi. Laura da Como ci scrive che si fa mi faccio fare 1 chilo di pane e me lo dividono a panini da 50 grammi, così ne mangio 2 al giorno, il resto lo congelo. Sbaglio? Dottor Speciani, poi chiediamo anche allora, la surgelazione inibisce un aspetto che è quello della lievitazione stessa. Però di per sé, quando un pane è già stato preparato e quindi è cotto, può essere tranquillamente surgelato per i nostri usi, non perde infinite caratteristiche, ne perde alcune, a me non però piace accettabile. Il pane surgelato. A volte potresti non accorgertene, nel senso che di fatto il pane non viene messo in condizioni. Anche a me piace molto di più fresco, però diciamo che in condizioni d'uso uno è sicuro di non farsi del male se per caso ne mangia un po' di surgelato. Dal surgelato andiamo ai forni invece, Deborah, che c'è quella notizia che ieri ha creato molto scompiglio. Presidente, la sorsa, abbiamo grande attenzione in questo periodo per tutte le problematiche della terra dei fuochi. Abbiamo letto di questa notizia di questi 9 forni abusivi sequestrati nel napoletano, forni contraffatti, ma insomma voi quando sentite queste storie? Vi si rizzano i capelli, vi arrabbiate oppure siete un po' tolleranti con queste persone che pur di lavorare naturalmente si ingegnano in ogni modo anche al di fuori della legalità? No, ma guardi, il problema napoletano per me non è nuovo, ma le dico che quei 9 forni sono una goccia nel mare dell'abusivismo che esiste nel napoletano e non solo. Però 9 forni, 49 persone denunciate, 33 quintali. Parliamo di percentuali molto più alte. Su 1000 forni autorizzati a Napoli, nel napoletano, rispondono 1500 forni abusivi, nascosti con su 1000 autorizzati, 1500 abusivi. 1500 abusivi, sì, sono tanti dei numeri veri, reali. Ma pure, Presidente, paradossalmente giustificando questa tendenza per la crisi, no? Che razza di pane esce da questi forni? No, ma non è una questione di crisi, guardi, questo è un problema che nel napoletano esiste da tempo, quindi non è legato agli ultimi tempi della crisi. Ora, è la provenienza di questo pane che deve preoccupare, perché noi sappiamo dove viene fatto, in quali ambienti viene fatto, usando... Che tipo di sono igiene? Stati nei servizi di vostri colleghi fatti a largo raggio su scala nazionale, dove anche rischiando di proprio hanno sono andati a controllare, insomma, sono andati a controllare, ma l'hanno fotografato, hanno ripreso queste cose qui. Ecco, hanno ma voi cosa fate? Alimentati forni. Presidente, lei sta voi come federazione fate una battaglia contro questa situazione? Come federazione fate delle battaglie contro questa situazione? Noi facciamo queste battaglie. Noi abbiamo fatto manifestazioni nel napoletano e abbiamo incontrato anche il prefetto. Però poca soluzione c'è. Mi sembra che la categoria, il nome di questa crisi in questi ultimi tempi, venga danneggiata da una tolleranza che ci fa apparire come gli ammortizzatori sociali del sistema. Sono queste le vere problematiche della nostra categoria. Il problema è che se questi forni pur abusivi e contraffatti hanno, come dire, dei clienti tutti i giorni che magari spendono un po' meno e vanno a comprare questo pane e si accontentano, ragazzi, della minor qualità, si può rischiare anche la salute, dottor Speciani. A comprare un pane che è stato cotto utilizzando, no, magari del materiale del legno verniciato, dottor Speciani, non so, scherzi direi questo. Il tema più importante è il fatto che le farine, l'olio e lo zucchero sono in realtà tra le sostanze più contraffatte all'interno dei controlli dei NAS a livello nazionale, perché sono tra le più vendute. Può essere che adesso, se davvero c'è un calo nella vendita del pane, si inizierà a contraffare un po' meno la farina dal punto di vista pratico. È vero che il rischio di distribuzione di sostanze, di farine talvolta provenienti ad esempio da derrate contaminate, è un rischio reale, e quindi la tracciabilità di quello che viene mangiato dovrebbe essere importantissima. Andiamo nella provincia di Milano, ci aspetta Bruna, che deve essere rapida. Buongiorno. Rapidissima, buongiorno, bravi a tutti. La domanda è, io faccio il pane in casa e lo compro. Sì. E quello che faccio in casa ha delle caratteristiche proprio fisiche completamente diverse. Mm. Intanto non diventa mai gommoso. Intanto dopo 3 o 4 giorni ammuffisce e deteriora come uno s'aspetti che deteriori sì. una cosa naturale. Quello che compro, sia che lo compro dal panettiere, che se lo compro alla panificazione, non so, del grande magazzino, sempre il giorno dopo, 2 giorni dopo diventa gommoso, poi secca, o comunque secca molto bene, non fa la muffa, per cui vi chiedo, ma che conservanti ci sono dentro? Che cosa c'è di diverso? Perché io adopero sicuramente solo farina, un goccino d'olio, un po' di sale e Bruna, lei ci ha apparecchiato, come dire, una domanda perché ci necessiteremmo di altre 3 ore di trasmissione, però non lo so, presidente, la sorsa, che cosa ci mettete per conservare in maniera diversa il pane? Non ci mettiamo niente, tant'è che il pane il giorno dopo è duro. Il nostro pane è quotidiano, nasce fresco e muore duro durante l'arco della giornata. Fermiamoci così, fresco al mattino. Dove trovate del pane confezionato che ha la durata di 3-4 giorni, evidentemente lì c'è qualcosa che non va, perché la conservazione viene aiutata. Insomma, con questo bel messaggio che ci ha dato... Il formaggio classico non troverà mai il pane. Che vada oltre la giornata. Presidente, dice dacci oggi il nostro pane quotidiano. Richiama. Noi dobbiamo fermarci, salutare il dottor Speciani, i nostri ascoltatori che sono intervenuti. Che non abbiamo fatto intervenire, che sono Giuseppe e Luciana, li salutiamo. Ne rifaremo un'altra di puntata su questo tema. Assolutamente. E salutiamo anche Marco da Ferrara. Sì, perché ci massacra sempre tutti i giorni, ma vi anticipo già, così è contento, che domani abbiamo una trasmissione fatta proprio per lui. Perché pane parleremo per i suoi denti. Eccolo là. Salutiamo. A domani. Grazie a Isotta Scenna, a Filippa Oreggi, a Marco Lombardo. A domani. A domani. Cuore e denari.